Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Anisnet. Un saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset. Andiamo oggi ad aprire un ciclo di due puntate sul tema della mobilità dello spazio urbano. Abbiamo con noi in studio Alfonso Spina, un architetto che ci illustrerà quali sono i suoi ultimi studi riguardanti proprio la mobilità, nello specifico il car sharing. Andremo ad analizzare un articolo apparso su Carta qualche settimana fa e andremo anche ad analizzare un saggio di Colin Ward che si intitola Dopo l'automobile. Tutto questo nella puntata di oggi e nella prossima. Un operaio che non sciopera mai. E siamo milioni e milioni laggiù. Dove? Lágrimas allí no valen. Arrepentimientos allí no aprovechan. Laggiù le lacrime sono inutili. Laggiù pentirsi non è di alcun aiuto. Oraciones allí no se oyen. Promesas para adelante allí no se admiten. Laggiù le preghiere non si ascoltano. Laggiù i buoni propositi si respingono. Tiempo de penitencia allí no se da. Laggiù non è più tempo di fare penitenza. Perché acabado il poster punto della vita, ya no hay más tiempo de penitencia. Perché, superato l'estremo attimo della vita, non è più concesso fare penitenza. Ma io. Ivan Illich, nel suo elogio della bicicletta pubblicato da poco da Bollati Boringhieri, richiamava il fatto che la bicicletta e il motore a scoppio sono nati nella stessa generazione. Purtroppo per noi e ancora di più per le generazioni future è stato il secondo a prendere il sopravvento. Ciao a tutti, sono Alfonso, lo studioso dei problemi della mobilità e dello spazio urbano. E vorrei introdurre dei discorsi che faremo qui su Mediasetta che riguardano la mobilità sostenibile e i sistemi che si possono definire tali. Quindi, per mobilità sostenibile si intende un sistema di mobilità che cerca di limitare il suo impatto ambientale, economico e sociale, col fine, che poi secondo me è abbastanza utopico, di non sovraccaricare gli ecosistemi di supporto. Questa questione ha a che fare con la classica triade della sostenibilità, quindi, secondo la quale la sostenibilità si deve declinare in finanziaria, sociale e ambientale. La diffusione capillare nei territori economicamente sviluppati del sistema di mobilità veicolare privato tramite utilizzo di automobili e motocicli, da una parte ha soddisfatto un'esigenza condivisa di libertà e possibilità di movimento, grande mito della società novecentesca. D'altra parte sta producendo una quantità di effetti collaterali di gravità impressionante, anche in sospetta sinergia con altri processi del moderno. Legal! dicevo, si parla di effetti interrelati causati da un'enorme diffusione del traffico veicolare, soprattutto veicolare privato e di merci. Questi effetti interrelati rendono una loro categorizzazione difficile da individuare, per cui il degrado generale dello spazio ambientale e sociale si può descrivere tramite tante categorie, tanti nomi. Noi possiamo dargli tanti nomi, possiamo parlare di inquinamento atmosferico acustico, congestione del traffico veicolare, saturazione degli spazi urbani di circolazione e sosta dei mezzi, per cui praticamente le automobili cominciano a occupare sia ferme che in movimento un'enorme quantità di spazio, aumento di incidenti mortali e traumatici verso persone e animali, distruzione del patrimonio edilizio storico tramite la sua erosione, prosciugamento di risorse lavorative e quindi finanziarie. Poi posso cominciare a elencare degli effetti che chiamo di secondo ordine, perché in qualche modo generati dai primi, e quindi aumento di stress, impoverimento del tessuto sociale comunitario, tendenze segregative e autosegregative dei soggetti sociali che rifiutano gli spazi comunitari. Una delle invarianti di questi processi degenerativi è la loro attitudine all'accelerazione continua, come la desertificazione per gli ambienti naturali. Cioè, più aumenta la distruzione della vivibilità dello spazio, più accelera la sua distruzione stessa. Può essere interessante a questo punto pensare e praticare sistemi di mobilità attenti al proprio impatto, tenendo a mente un divertente e paradossale limite che penso intrinseco al concetto di sostenibilità, e cioè che la modalità di movimento meno energivora, entropica e impattante è forse proprio la sua assenza, che il solo utilizzo di tecnologie di supporto può essere già un problema da evitare. Le modalità attraverso le quali si ottiene un sistema di mobilità sostenibile sono diverse. È fondamentale la loro reciproca interrelazione e multiscalarità. Ponendosi per un attimo in un'ottica strategica, e quindi anche un po' demiurgica, il sistema dovrebbe essere implementato in tutte le sue parti, più che in una parte specifica. E anche questa è una caratteristica generalizzata dei sistemi complessi. Cominciamo allora su Mediaset a un racconto più o meno citazionistico, più o meno didascalico, più o meno personale dei sistemi di mobilità sostenibile o alternativa. Allora, Vado subito a ricollegarmi a quanto diceva prima Alfonso, circa tutto quanto sta derivando da questo incredibile utilizzo dei veicoli per i privati. Ossia, andiamo ad analizzare nello specifico ciò che accade nella pianura padana, che sta soffocando, perlomeno questo sembra da un dossier del WWF. È stata paragonata ad una Bombay su quattro ruote, un'enorme città diffusa popolata da 20 milioni di persone. Tanti sono appunto gli abitanti di Bombay, che percorrono 16.000 km all'anno in giro per un'area urbana e suburbana di 30.000 km quadrati, pari ad un quarto di tutto il settentrione. Formigoni, presidente della regione Lombardia, ha fatto credere di voler correre ai ripari quando lo scorso 7 febbraio ha firmato un patto antismog che prevedeva lo stop alla circolazione di tutta la Valle Padana, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano. Il giorno dopo, la svolta ambientalista di Formigoni ha provocato un ricorso del governo alla Corte Costituzionale contro la legge lombarda sulla lotta all'inquinamento, che era stata approvata lo scorso novembre, badate bene, anche con l'astensione del centro-sinistra. Que te embriague con su te lleva a ninguna parte, te lo dicen los campeñas, que lao, en la calle. Hizo un día por sorpresa, te lo encuentras por la calle, no le escribes nota aparte, no le saltes. 66 milioni di tonnellate sono le emissioni di CO2 causate dal traffico automobilistico nella megalopoli padana. Negli ultimi 15 anni le emissioni complessive sono aumentate del 25%, quelle del settore trasporti però dal 1980 al 2000 sono aumentate addirittura del 71%, vanificando i già timidi sforzi per tagliare le emissioni industriali e domestiche. 585 automobili ogni 1000 abitanti è il tasso medio di motorizzazione della megalopoli nel 2000. Continuando appunto su questo articolo di carta, andiamo a vedere che il 25% tra il 1980 e il 2000 è l'aumento complessivo della superficie stradale e autostradale della megalopoli padana. Impossibile tenere il passo con la crescita delle auto. L'articolo di carta a nome di Eleonora Formisani continua dicendo che sono stati circa 2 milioni tra il 1980 e il 2000 gli incidenti stradali che hanno coinvolto poco più di 2 milioni di persone, il 10% della popolazione del nord Italia. Con l'aumento della motorizzazione la frequenza degli incidenti è aumentata, soprattutto negli ultimi 5 anni. E anche che l'87% è oggi la percentuale del traffico su gomma nella megalopoli. Secondo le proiezioni, la cifra è destinata ad arrivare al 90% entro pochi anni. Quindi, ricollegando al discorso sulla possibilità di muoversi in maniera meno impattante, diciamo che a livello istituzionale qualcosa si muove, certo con le dovute differenze e dovuti impegni. Un interessante riferimento istituzionale che riguarda l'argomento sono appunto l'insieme di progetti europei di ricerca e sviluppo che hanno risposto al bando denominato Civitas, dedicati al miglioramento dell'ambiente urbano. All'interno di questa figura istituzionale si è concentrato l'impegno nella direzione della mobilità sostenibile effettuato nelle grandi e medie città europee, con il contributo importante di fondi comunitari. Il sito web ufficiale che mostra le esperienze realizzate e i progetti futuri è civitas-initiative.org, sarebbe initiative in inglese. Ai bandi Civitas partecipano una pluralità di soggetti in diverse nazioni europee, enti locali, agenzie della mobilità e dell'ambiente locali, società private, soggetti associativi e cooperativi, istituti di ricerca. La loro reale capacità di produrre cambiamento dipende però dall'impegno collettivo che li caratterizza, come del resto qualsiasi entità burocratica, che al limite rischia di ridursi a una macchina mangiasoldi. Realizza una mobilità sostenibile è il car sharing, dall'inglese condivisione dell'automobile, un servizio che permette di utilizzare un'automobile su prenotazione, prelevandola, riportandola nel parcheggio vicino al proprio domicilio e pagando a ragione dell'utilizzo fatto. L'auto in questo modo passa dall'ambito dei beni di consumo a quello dei servizi, cioè l'utente non è più preoccupato di comprarsi o di possedere un mezzo, ma è interessato a avere il servizio di poter utilizzare un mezzo. Tipicamente si tratta di un servizio commerciale erogato da apposite aziende, spesso con l'appoggio di associazioni ambientaliste ed enti locali. La tariffa per il servizio è basata sulla durata dell'utilizzo prenotato e sulla percorrenza effettuata e generalmente comprende tutte le spese legate al possesso e all'utilizzo dell'auto, acquisto, manutenzione, tasse, assicurazione e carburante. Il gestore del servizio si prende carico di tutte le incombenze relative alla gestione dell'auto. Quando si possiede un'auto privata, gran parte dei costi sono tendenzialmente indipendenti dall'utilizzo che se ne fa: acquisto, manutenzione, assicurazione, tasse. Quando si deve decidere se usarla o meno, si percepisce di dover sostenere solo i costi vivi relativi al carburante o al massimo quelli relativi all'usura, visto che i costi fissi non possono essere evitati. Questo porta a sottovalutare il costo dell'utilizzo dell'auto e quindi a utilizzarla più di quanto sia opportuno, anche dal punto di vista del proprio bilancio individuale o familiare. Il car sharing, al contrario, rende i costi relativi all'uso dell'auto prevalentemente dipendenti dall'utilizzo, permettendo di percepire il vero costo dell'auto ogni volta che si deve decidere di usarla, o al contrario il vero risparmio che si otterrebbe non usandola. Di conseguenza, usare un'auto in car sharing invece che una di proprietà tende a ridurre l'utilizzo che se ne fa. Se il sogno qui è muro, sarà la luna del tempo. I vantaggi quindi del car sharing sono sicuramente per il privato, che percorre meno di 10.000 km l'anno, per le famiglie che posseggono una o più di un'auto e che abbiano in casi sporadici l'esigenza di usarne un'altra, si riducono notevolmente il numero di automobili parcheggiate e circolanti per strada. Le automobili usate per il car sharing sono utilizzate intensivamente, per cui devono essere dismesse dopo pochi anni di esercizio e molto spesso sono tenute in perfetta manutenzione. Si può scegliere poi tra una gamma di modelli di grandezza e costi diversi. In Svizzera addirittura sono disponibili minivan, transport, fashion, cabrio, comfort, combi, compact, diversi tipi di autovetture. Ho tratto da Wikipedia alla voce car sharing qualcosa di questa sintesi riguardante questa modalità. Allora Alfonso, due domande prima di concludere la trasmissione di oggi. Ti volevo chiedere, a parer tuo, il possesso di un'auto comporta chiaramente comporta troppi vantaggi per troppe persone perché si possa pensare di lanciare una campagna puramente politica per il suo abbandono? Quindi secondo te, nello specifico, quale sarebbe la via più graduale per cercare di, come dire, perlomeno di limitare l'utilizzo di questo tipo di vettura? Ma io penso, se parliamo di procedure, diciamo procedure graduali, dobbiamo prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i fondi europei che sono destinati a questo, cioè al cambio di tutta una serie di equilibri dell'economia di mercato. Non è detto che sia abbastanza fare ciò, però stiamo parlando di procedure di tipo insomma graduale, non è chiaro che da qualche parte bisogna pure cominciare comunque. e sempre nell'articolo di carta c'è una serie di chiamata mobilità virtuosa che il WWF Italia indica su alcuni capisaldi. Volevo un tuo giudizio circa uno dei punti, gli altri mi sembrano molto condivisibili, ossia parla la mobilità del WWF che in ambito urbano si dovrebbe chiedere l'istituzione di congestion charge o appunto pedaggi d'ingresso alle città che sul modello di Londra abbiano lo scopo di penalizzare con tariffe più elevate i veicoli che emettono più CO2. Ti chiedo, questo tipo di pedaggio, che voglio dire, potrebbe essere anche giusto, non potrebbe portare a una penalizzazione delle auto vecchie, incentivando quello che poi di fatto è il nuovo mercato delle autovetture, insomma? Sì, si può ridurre a una misura sociale, segregativa sociale, cioè nel senso chi non ha i soldi per implementare la propria automobile si attacca. Certamente. Con questo andiamo a concludere la puntata di oggi. Ricordiamo la nostra mail che è mediaset@gmail.com. Abbiamo parlato di mobilità e spazio urbano, stesso argomento andremo ad affrontare nella prossima puntata, a chiudere il ciclo di queste due puntate. Dagli studi di Amisnet per Mediaset, Alfonso e Cristiano alla voce e Andrea in regia. Un saluto a tutti.